C'è voluto un sequestro di persona, ultimo tragico atto di uno dei 125 condannati finora irreperibile, a far parlare in modo diffuso di questa sentenza di primo grado del processo Emilia sull'infiltrazione dell'Andrangheta al nord. Francesco Amato, condannato a 19 anni nella sentenza dello scorso 31 ottobre, è entrato in un ufficio postale a Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, ha fatto uscire i clienti e ha preso in ostaggio 5 dipendenti. Noi, per parlare del processo Emilia, di questa sentenza e delle sue implicazioni, siamo al telefono con Sofia Nardacchione di Libera Bologna, che intanto saluto, buongiorno. Buongiorno a voi. Tra l'altro Libera per mercoledì prossimo alla fattoria Masaniello in via Pirandello 6 alle 19 organizza un'iniziativa proprio appunto su quello che vuol dire questa sentenza. Allora Sofia, i numeri innanzitutto fanno impressione, si parla di più di 1000 anni di condanne. Sì, sono numeri altissimi che erano già stati anticipati dalle richieste dei pubblici ministeri, che erano addirittura più alte, arrivavano a oltre 1700 anni di pena. Rimangono comunque numeri altissimi che ci restituiscono l'importanza di questo processo, importanza che ovviamente va oltre ai numeri, ma purtroppo spesso ci vogliono appunto dei dati così grandi per far capire qual è l'importanza di un processo del genere, che appunto è stato chiamato il maxi processo all'Andrangheta emiliana. Si parla di 125 condanne, anche su appunto il numero dei condannati ci dà un po' la dimensione forse del livello di penetrazione che ha l'Andrangheta sul nostro territorio. Un livello di penetrazione altissima, 125 condanne su 148 imputati è un numero molto alto, e soprattutto ci dice che sono implicati in questo processo non solo andranghetisti, ma anche cittadini, professionisti che hanno aiutato l'Andrangheta a radicarsi, e questo crediamo che sia l'aspetto più importante da mettere in evidenza all'interno di queste condanne. I numeri più alti di pena ovviamente sono arrivati per gli imputati condannati per associazione mafiosa, che sono stati condannati a pena altissima, appunto uno di questi è proprio Francesco Amato, di cui parlavamo prima, pene altissime che arrivano anche a 38 anni tra le condanne dei riti abbreviati e quelle del rito ordinario. Quali erano e quali sono, verrebbe anche da dire, perché il problema dell'infiltrazione non è finito ovviamente con il processo, anche perché siamo al primo grado, le principali attività criminali che appunto l'Andrangheta compiva nei nostri territori? Sono tantissime. I capi di imputazione dell'operazione Emilia erano in totale 189, quindi si parla davvero di tantissimi aspetti. Ovviamente oltre all'associazione mafiosa e vari reati che riguardano questo aspetto, quindi minacce, incendi, usure, danneggiamenti, estorsioni, e l'aspetto più importante è quello appunto dell'infiltrazione nell'economia legale della regione, quindi appalti, sfruttamento della manodopera illegale, tantissimi aspetti, false fatturazioni, aspetti che ovviamente colpiscono la cittadinanza intera, e che crediamo siano quelli appunto che vadano messi più in evidenza. Prima io dicevo che appunto questa notizia non ha avuto, la notizia delle condanne, insomma della sentenza, non ha avuto molto clamore, e aveva fatto più clamore diciamo l'apertura dell'inchiesta qualche anno fa, forse anche in scia con Mafia Capitale. Secondo te perché, visto che tu tra l'altro a Libera ti occupi di comunicazione, ha fatto così poco notizia? Ma sì, in effetti quando c'era stata l'operazione forse c'era stata anche una sorta di spettacolarità dell'operazione, con gli elicotteri, con forze dell'ordine in paesini che non si erano mai sentiti toccati dal fenomeno, e di sicuro aveva aiutato, insieme ai numeri alti degli imputati, a far emergere la situazione. Sui giornali se ne è parlato spessissimo. Poi pian piano è diventato forse difficile anche raccontare un processo del genere, un processo che è durato relativamente poco, cioè 2 anni e mezzo, ma con udienze 2 volte alla settimana, udienze lunghissime in cui sono emersi tantissimi aspetti. A livello locale, in particolare a Modena e Reggio Emilia, l'informazione credo che abbia saputo mantenere alta l'attenzione sul processo, sugli imputati e su tutti quei filoni paralleli di indagine che si sono aperti in questi anni. A Bologna purtroppo la situazione è molto diversa, se ne è parlato poco e si ritiene ancora che sia una città immune dal fenomeno. E infatti una delle domande che vedo nel volantino dell'iniziativa del 7 è: perché ci riguarda tutti? La giro a te ovviamente questa domanda. Beh, ci riguarda innanzitutto perché sono sono stati condannati anche in particolare nei processi precedenti che riguardavano sempre Emilia, quindi nei riti abbreviati, professionisti. A Bologna avevamo appunto la commercialista Tattini, che è stata condannata a 8 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, ma i casi sono altri, anche di giornalisti condannati sempre per concorso esterno. E credo che questo ci debba far capire di come sia un fenomeno che riguarda tutti, che riguardi tutti i campi, tutti i settori e tutte le professioni. E quindi per primi noi come cittadini e come professionisti dobbiamo capire banalmente da che parte stare. E il secondo aspetto, ancora più importante, viene dalle dichiarazioni che ha fatto uno dei collaboratori di giustizia del processo, il più importante, Antonio Valerio, che quando ha rilasciato la sua dichiarazione spontanea nella penultima udienza prima della sentenza, ha dichiarato, e credo sia importante sottolinearlo, ha dichiarato che ci sono nuove leve, giovani, pronti ad entrare nelle fila della 'ndrangheta e che probabilmente sono già entrate. Questo vuol dire innanzitutto che la 'ndrangheta emiliana non è finita, c'è una sentenza che di sicuro è importantissima, ci sono delle condanne importantissime, ci sono sequestri, confische altissime, ma la 'ndrangheta emiliana non si è fermata ed è pronta a rigenerarsi. La domanda che ti volevo fare, l'ultima domanda, riguarda, come dire, tutti noi, nel senso anche in particolare le istituzioni. Secondo te negli ultimi 3 anni sono stati maturati strumenti e anticorpi per fronteggiare questo problema? Credo che per fronteggiare anche questo problema, riprendendo anche il discorso di prima, sia necessario creare altre possibilità, cioè perché ci sono dei giovani che sono pronti ad entrare nelle fila della 'ndrangheta o perché sono cresciuti in ambienti di 'ndrangheta o perché sono in difficoltà, hanno bisogno di lavoro, non hanno altre possibilità. Forse banalizzando, però credo che sia così. Quindi creare altre possibilità, creare lavoro, creare percorsi che permettono di agire in un altro modo, credo sia alla base di quello che dobbiamo fare tutti, la politica in primis, però anche le associazioni, i professionisti, per provare a sconfiggere realmente questo problema, che ovviamente non viene sconfitto da una sentenza. Io, Sofia, ti ringrazio e ricordo l'appuntamento mercoledì alle 19, la fattoria Masaniello in via Pirandello 6, processo Emilia, oltre 1000 anni di condanne. Cosa ci dicono le sentenze? Grazie mille. Grazie a voi.